Cornelio Germano, coautore e interprete dello spettacolo Il sogno di una cosa, in scena a Grosseto lunedì 3 marzo 2025, ben trovato. Ciao, ciao Federico, ciao, ben trovati a tutti e a tutti. Presentaci questo evento. Innanzitutto, appunto, l'autore vero è Pierpaolo Pasolini, nel senso che è tratto dal romanzo di una cosa, questo spettacolo che abbiamo messo in piedi con Teo Teardo. E appunto, Il sogno di una cosa è il primo romanzo che ha scritto Pasolini, anche se stranamente è l'ultimo che è uscito. E racconta delle vicende del maturare di due o tre ragazzi principali, e poi insomma abbiamo fatto una selezione per portarlo nello spettacolo. Questi ragazzi che attraverso 2 anni, l'ultimo dopoguerra, quindi dal 48 alla fine del 49, diventano uomini, quindi passano dai 17, 18 ai 19, 20 anni, e attraversano tre fasi principali, che poi sono tre tematiche molto care a Pasolini. Quindi la prima è quello dell'idillio rurale, cioè queste feste, queste sagre di paese, da dove parte la storia. Poi i ragazzi appunto cominciano a sognare un mondo migliore, è da qui il titolo, il sogno di questa cosa indefinibile, e quindi tentano di declinare questa felicità in una fuga, e cercano un mondo migliore all'estero, nella idealizzazione dei ragazzi dell'epoca, di quel periodo, di quelle zone della Jugoslavia comunista, che idealizzavano né più né meno come anni dopo o prima idealizzavamo gli Stati Uniti, o come oggi i nuovi migranti idealizzano magari l'Europa, perché è frutto appunto delle propagande, no, che vengono diffuse prima della realtà del paese. Quindi attraversano, fanno questo percorso per tentare di migrare in Jugoslavia. È interessante che lo fanno attraverso le stesse rotte che fanno oggi i migranti, ma al contrario, quindi nel Collio, nel confine tra Italia e Slovenia. Lì trovano ovviamente non quello che idealizzavano, ma la reclusione come clandestini. Quindi tornano in Italia, si apre un'altra fase del racconto, ma anche della vita di questi ragazzi, che è quella delle lotte collettive, quindi cercare di declinare questa felicità in termini plurali, di farlo appunto attraverso le lotte all'epoca in Friuli per le riconquiste dei terreni che erano a latifondo. E quindi attraversano anche questa fase, i conflitti con le forze dell'ordine, se non che appunto poi ciascuno dei protagonisti sceglie di declinare questa felicità in termini individuali, e in questo modo raccontiamo un po' anche quello che è successo al nostro paese, e quindi si allontanano. Chi in un posto di lavoro, chi con una relazione amorosa, chi per stare dietro alla famiglia, insomma, poi finiranno in maniera, un ragazzo morirà sul lavoro e un altro troverà la felicità appunto nella sua storia personale di coppia. E quindi ecco, attraverso loro raccontiamo un po' anche quello che è successo nel nostro paese, e comunque delle tematiche molto pasoliniane. Come nasce questo tuo progetto? È stata una sollecitazione appunto di Teo Teardo, appunto, che fa le musiche anche in scena, di leggere questo libro, ma molto incuriosito, perché ci sono appunto tanti rimandi con la nostra contemporaneità. Era un testo che non conoscevo, è un racconto in terza persona che Pasolini fa raccontando di questi ragazzi, e quindi per sentire le loro voci, per farle sentire, per restituirle, ho fatto un laboratorio di una settimana su proprio nei luoghi dove è ambientato il romanzo, quindi Casa Arsa, intorno a quelle zone lì, proprio di dove era Pasolini, e con attori non professionisti, insomma, di teatro dialettale, e ho rimesso in scena le cose che vengono raccontate nel libro, che poi nella maggior parte dei casi sono fatti realmente accaduti. E la cosa assurda è che li abbiamo messi in scena nei posti dove realmente sono accaduti, e li abbiamo ripresi come se fosse un film, ma soltanto con l'audio. Quindi soltanto con il microfonista, anche in alcuni casi vestiti un po' dell'epoca per far suonare anche gli indumenti adatti. Quindi c'è stata una specie di esercizio collettivo di riproduzione delle cose, e queste cose durante lo spettacolo le diffondiamo. Lo spettacolo è un racconto, e quindi per restituire queste voci, questi ambienti, c'è tutta una ricostruzione audio cinematografica, per cui utilizziamo anche gli altoparlanti sparsi attorno al pubblico, non soltanto frontale, come al solito al teatro, in cui si possono proprio localizzare i suoni, le cose che accadono e anche le voci, perché mi sembrava giusto restituire proprio i suoni di quella terra, ecco, senza andarli a imitare. Cosa avevi apprezzato del testo? A parte una scrittura anche molto diretta, no? Nel senso, si sente che il primo romanzo di Pasolini è molto aggrappato a quello che è a servizio della storia, no? Poi prenderà molto invece gusto nel far sentire anche la sua scrittura. Io sono un amante delle poesie di Pasolini, proprio perché apprezzo proprio dei testi magari più asciutti, ecco, mi piacciono più gli spazi tra le parole. Pasolini invece molto spesso abbonda in descrizioni, appunto, ecco, mi ha colpito questa differenza di questo primo libro, in cui si sente che il primo libro è questa sincerità e questo rapporto con questi ragazzi che insomma racconta anche un po' quello che era lui, no? Lui era un insegnante, quindi si sente questo amore per questi ragazzi che escono, che diventano adulti, no? Che entrano nella vita. E poi ripeto, questi rimandi con il contemporaneo, ci sono queste migrazioni al contrario, c'è una scena in cui i ragazzi appunto in un'occupazione di una villa padronale, questi ragazzi si intrufolano, entrano in questa reggia e improvvisamente rubano i sacchi di farina e bevono il vino, ecco che mi ha ricordato quelle scene appunto quando saltano, ogni tanto si stappa qualche dittatore in Medio Oriente, no? Vediamo appunto scene di riconquista più o meno violenta, no? Di spazi padronali che vengono assaltati dalle folle e ragazzi semplicemente inebriati di poter accedere a quel lusso che era visto soltanto da lontano e dove riescono ad entrare, no? Ci sono tanti rimandi e là diventa ovviamente poi interessante. Poi ecco questa possibilità di far accadere lo spettacolo in aria, nel senso che il palco è nudo, non c'è nulla, siamo io e Teo con degli strumenti e queste voci, per restituire l'idea anche del sogno, cioè qualcosa che avviene, non avviene sul palco ma a metà, in un incontro tra il pubblico e le cose che vengono piuttosto evocate, più che rappresentate. E quindi ecco, era uno strumento utile per avere anche questo rapporto col pubblico, cioè di raccontare una storia, molto semplicemente. Lo spettacolo Il sogno di una cosa, in scena a Grosseto al Teatro Moderno, lunedì 3 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento al coautore e interprete Elio Germano. Ci vediamo lì. Grazie, ciao Federico, grazie a te. Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste, l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Con Surang Kadugampala, regista del film Still Here, al cinema da martedì 25 febbraio 2025, ben trovato. Grazie, grazie mille dell'invito. Cosa racconta il tuo film? La storia di una famiglia che si disgrega mentre a sfondo c'è un quartiere che sta probabilmente per essere raso al suolo da una grande e futuristica città che sta arrivando. Per girare questo film ho fatto un lungo percorso anche di osservazione di due quartieri che ho frequentato, uno a Milano, a Corvetto, e uno in Sri Lanka, a Colombo. Io sono dello Sri Lanka e ho vissuto a cavallo tra questi due mondi, ma in entrambi questi due mondi ho osservato un grande fenomeno di gentrificazione e quindi ho voluto un po' mischiare questi due territori per raccontare una storia che li accomuna. Come era partita l'idea e il progetto del film? Dopo il mio primo film Per un figlio ho voluto esplorare il linguaggio del cinema oltre a immaginare un film ambientato in una grande città, da cui appunto Milano, e poi insieme alla mia cosceneggiatrice abbiamo sviluppato questo film proprio a Corvetto, dove appunto abitavo. E poi il percorso mi ha fatto conoscere questa grande città in costruzione proprio davanti a Colombo, capitale dello Sri Lanka, e quindi ho preso questi singoli punti e ho creato la mia mappa personale dove il film è ambientato. Come hai voluto raccontare questo processo di gentrificazione? L'intenzione è sempre stata quella di lavorare in un territorio del cinema del reale, quindi un territorio molto sottile anche tra documentario e finzione. E per fare questo c'è stato appunto un lavoro con gli abitanti di questi quartieri, con gli spazi di questi quartieri e quindi si sono creati dei processi di avvicinamento, possiamo dire, di frequentazione, di coinvolgimento, processi che si sono incrociati con altri processi come processi urbani o di rigenerazione urbana. Ecco, quindi è stato un film, un percorso che si è mescolato con altre traiettorie, creando punti di intersezione dove cinema e l'urbanesimo appunto hanno trovato dei punti in comune. Ci sono dei riferimenti stilistici che hai e che hai espresso? Penso di sì, assolutamente. Registi che ho amato, che continuo ad amare per la loro ossessione al cinema e per la loro ossessione al linguaggio del cinema. Io vengo dallo Sri Lanka, per me già la lingua italiana è una lingua che ho imparato e ho sentito il bisogno di imparare e anche decostruire il linguaggio del cinema. Quindi in questo senso questo film è, ovviamente è frutto di tanti studi che ho fatto, anche cinematografici. Quindi sono molti i registi, sì, tra l'Europa, l'Asia e Latino America. Che distribuzione sarà? Tanto indipendente, perché è un film che va curato, la distribuzione va curata e insieme a 5-6, la casa di produzione che ha creduto in questo film, abbiamo pensato di accompagnare noi il film stesso, perché credo fortemente che il film racconti un'Italia contemporanea, come ho sempre un po' voluto fare nei miei film, ma penso che un film del genere appunto vada accompagnato, vada presentato anche in un contesto dove la sala cinema soffre di partecipazione, quindi inventando delle azioni di proiezione, inventando delle azioni di proiezione collettiva. Quindi è una sfida, ma pensiamo fortemente, come anche tanti registi del panorama contemporaneo italiano cinematografico fanno, cioè quello di accompagnare il loro film, di farlo esistere, di legarlo ad un pubblico. Quindi questo è quello che faremo adesso. Ci sono dei riferimenti web per sapere dove vederlo? Sì, assolutamente, sul sito 56.it. Il film Still Here al cinema da martedì 25 febbraio 2025. Un saluto e un ringraziamento al regista Surang Kattugampala. Grazie mille. Alla prossima. Alla prossima. Con Giovanni Tortorici, regista del film 19, al cinema da giovedì 27 febbraio 2025. Ben trovato. Grazie, ciao a tutti. Cos'hai raccontato? Ho raccontato un po' il primo anno di università di un ragazzo di Palermo che inizia a Londra per poi entrare come in una crisi mistica e lasciare gli studi di business per fare letteratura a Siena. Come nasce questo lavoro? Nasce un po' da un'esperienza autobiografica, nel senso che ho sempre avuto grande interesse per l'autobiografia, avevo tanti libri preferiti e film che erano autobiografici, mi hanno sempre suscitato molto interesse e quindi ripensavo a questo anno che ho vissuto nel 2015, appunto nel mio primo anno di università, e ritenevo fosse molto interessante da diversi punti di vista e quindi ho voluto approfondirlo, analizzarlo, autoanalizzarmi. Quindi diciamo questa è un po' la genesi. Su quali elementi dell'esperienza autobiografica hai voluto centrarlo? Credo sulla quotidianità. Non ci sono stati avvenimenti eclatanti e si concentrava tutto molto sulla mia vita quotidiana, la mia routine da studente, la mia routine da piccolo appartamento studentesco in cui vivevo. Quindi mi piaceva centrare questi piccoli avvenimenti, questi modi di fare che li trovavo sintomatici comunque di una nevrosi da ragazzo che insomma caratterizza molti dei giovani. Ho cercato di essere specifico su di me, però penso che tutti i ragazzi siano abbastanza nevrotici in generale. Com'è stata la scelta degli interpreti e com'è stato lavorarci insieme? Ho lavorato con Chiara Polizzi, che è una bravissima casting director molto importante, che ha lavorato con registi come Alice Rockwacker e Matteo Garrone, tra gli altri. anche perché ammiravo molto del suo lavoro, la sua ricerca anche di non attori, quindi l'idea partiva un po' da questo. E quindi abbiamo fatto molto street casting, si chiama così, e tra gli altri ragazzi che abbiamo visto, abbiamo fatto giro in tutta Italia, però il nostro preferito era Manfredi Marini, che è il protagonista del film, che è un ragazzo di Palermo che quando abbiamo girato faceva ancora il quinto anno di liceo. Il lavoro è stato molto piacevole, abbiamo fatto tante prove prima di arrivare nel set, però è stato molto bello in generale, c'erano appunto diversi non attori, c'è la sorella del protagonista che non è un'attrice ma è stata bravissima, poi però ci sono anche attori importanti, c'è Luca Lazzareschi che fa il professore universitario, e poi c'è Dana Giuliano, una bravissima attrice ragazza, c'è Zachary Delmas che è anche un super promettente attore ragazzo, e quindi sono stato molto contento di appunto lavorare con diversi tipi di attori e non attori. Abbiamo fatto tante prove e poi siamo arrivati nel set preparati. Si è aggiunta anche dell'improvvisazione? A volte, magari facendo le prove, mi ricordo in particolare Dana Giuliano, questa ragazza di cui dicevo prima, che qualche volta le usciva qualche parola o frasetta che ritenevo iper pertinente alla scena, al personaggio, e mi è capitato di aggiungerla nella sceneggiatura. A volte poteva succedere. Stilisticamente hai avuto dei riferimenti cinematografici? Sì, c'è tutto un cinema che io amo molto, che secondo me ritorna nel film. Ho una grande passione per un cinema un po' espressionista che riflette sul linguaggio, e quindi penso che ci sia stata un po' l'influenza di Godard, di Sam Peckinpah, che amo molto, che ho usato un po' di rallenti come fa lui. Poi il cinema di Hong Kong amo pure moltissimo, e anche B-movies anni 70, 80, che è il poliziottesco. Questo dal punto di vista un po' stilistico, dal punto di vista di argomenti, di narrazione un po' meno. Però qualche inquadratura, qualche cosa di montaggio viene un po' da quel cinema lì. La scelta del titolo? Ne avevo proposti vari ai produttori e 19 era quello che riscuoteva più successo. C'era anche qualche titolo un po' più letterario, che era tipo I 19 anni di Leonardo Gravina, era diciamo un po' ottocentesco, e invece 19 a lettere aveva persuaso tutti i produttori, a me pure piaceva molto, mi sembrava semplice, non dava nessun tipo di qualifica al film, era neutro ma per me efficace, quindi poi ho scelto questo. Il film 19 al cinema da giovedì 27 febbraio 2025, un saluto e un ringraziamento al regista Giovanni Tortorici. Alla prossima! Alla prossima, grazie a tutti! Il regista Tommaso Aramini sul suo documentario Pensando ad Anna, in proiezione a Roma al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per il ciclo Anni 70 Italia in rivolta, giovedì 27 febbraio 2025. Ben trovato. Grazie, grazie Federico, ben trovati a tutti voi. Che storia hai raccontato? Ho raccontato la storia di un ribelle che diventa un delinquente politicizzato ed entra prima nei nuclei armati proletari e poi nelle brigate russe. E attraverso la sua storia, ho raccontato la storia delle rivolte carcerarie negli anni 70 e non da ultimo il rapporto tra fede politica e amore affettivo di Anna con Pasquale. Come nasce il progetto? Dalla mia volontà di raccontare gli anni 70 da una prospettiva diversa, ovvero quella del carcere, che mi offriva appunto la possibilità di esplorare le due particolarità, il ruolo dei delinquenti all'interno del movimento e il nesso originale tra gli studenti e appunto i delinquenti che diventano delinquenti politicizzati. In un qualche modo, per esempio, il paradigmatico l'incontro alle murate tra Pasquale e Luca Mantini. E devo anche aggiungere una cosa, che nel carcere, in quell'epoca, mi sono accorto via via, insomma, approfondendo la tematica, tutta una serie di contraddizioni all'esterno venivano condensate, riflesse in maniera più chiara, più diretta. Quindi è anche un modo, da una prospettiva inusuale, di cercare di avere un quadro storico più chiaro, più approfondito, ovviamente nei limiti di quello che è possibile fare in un documentario sull'epoca. Proprio a questo proposito, che lavoro di ricerca hai fatto? Al netto di quello che è chiaramente la tradizionale lavoro da topo di biblioteca, quindi lavorando molto sulle fonti scritte dei vari giornali dell'epoca, sui libri che più recentemente sono stati scritti, è stato un grande lavoro etnografico con Pasquale stesso. La metodologia del film, che viene esplicitata sin dai primissimi minuti, è quella dell'etnografia performativa. E l'etnografia performativa nasce negli anni 60 in ambiti accademici anglosassoni come critica radicale a quella che era l'etnografia, che io definisco da entomologo, positivistica, dove appunto il ricercatore si poneva in un contesto superiore rispetto a quello del proprio interlocutore. Invece qui si co-costruisce, attraverso il dialogo, anche il conflitto, la dialettica, un territorio, un perimetro di senso comune. E quindi abbiamo iniziato un profondo dialogo io e Pasquale, che si è riflesso in moltissime riscritture della sceneggiatura, dove, sviluppando questa fiducia, via via si è potuto sviluppare una posizione di riflessività da parte sua e da parte mia, e che poi di fatto diventa la possibilità anche per lo spettatore di riflettere sull'epoca. Hai avuto anche altri interlocutori e interlocutrici? Sì, nel film abbiamo avuto modo di intervistare Domenico De Laurentiis e, ad esempio, altri militanti di NAP all'interno della scena del processo. E per quanto riguarda invece la parte giornalistica, ho voluto che fosse Fulvio Buffi, già sceneggiatore della docuserie su Dozier, a interloquire con Pasquale, anche per avere un necessario distacco nei momenti appunto più conflittuali, se vogliamo, del film. Come hai deciso di articolarlo? Una volta scelta la metodologia, iniziato il lavoro di scrittura, era necessario iniziare a capire come tradurre a livello registico quella che comunque è un metodo di lavoro strettamente confinato in ambito accademico, dove di solito quando si fa etnografia performativa in ambito accademico viene utilizzata una telecamera fissa che registra semplicemente queste interazioni tra ricercatore e interlocutori. E per me era necessario far vedere i passaggi dei piani di racconto del documentario, e quindi l'utilizzo del piano sequenza era lo strumento sicuramente più adatto, ed essendo anche un'esperienza costruttivistica era necessario far vedere le cuciture del discorso filmico, quindi in un certo senso con un montaggio strutturalista molto ispirato a quello che è il lavoro del mio maestro Romano Scavolini, in particolar modo la prova generale. Che tipo di circuitazione avete pensato? È sicuramente un film cosiddetto, no, difficile, che può vivere grazie a quelle che sono le spinte dalla base, cioè di quegli spettatori, di quelle reti, di quei collettivi che hanno un interesse storico, culturale, sociale, e di quello spettatore più in generale che vuole e che sogna ancora un cinema che possa far riflettere e dibattere. Quindi ti posso dire lo stato delle cose. Noi ci stiamo muovendo molto raccogliendo l'interesse di chi vuole che questo film venga proiettato, e poi, grazie alla distribuzione Nomad Entertainment, andando dagli esercenti e proponendo loro una serata evento. Al momento, appunto, abbiamo l'anteprima, se vogliamo, nazionale, dopo quella che c'è stata al Festival dei Popoli, ma era legato appunto in un ambito festivaliero, al nuovo Cinema Aquila, venerdì 17. C'è una doppia proiezione perché i biglietti in prevendita stanno andando a ruba, quindi avremo una doppia proiezione alle 18.30 e una alle 21.15, poi replicheremo venerdì 24 e mercoledì 29. Ci saranno molte altre date su cui adesso stiamo trovando degli accordi in tutta Italia. In questo senso, dei riferimenti web per saperne di più? Ci potete seguire sulle nostre pagine social Instagram di Nomad Entertainment, la mia personale tomaso.aramini sul sito web di Nomad, e anche sulla pagina Instagram della mia società di produzione, che è method.cinema. Il titolo? Pensando ad Anna, è una diretta ovviamente ispirazione al libro autobiografico di Pasquale, Correvo pensando ad Anna. Abbiamo scelto di semplificarlo per un riferimento diretto ideale ad Anna che è scomparsa nel 2017. Alla prossima! Grazie a voi! Il regista Tommaso Aramini sul suo documentario Pensando ad Anna, in proiezione a Roma al centro sociale occupato autogestito Forte Prenestino per il ciclo Anni 70 Italia in rivolta, giovedì 27 febbraio 2025. Sardella, regista del documentario Portuali al cinema da lunedì 3 marzo 2025 con Open DDB Distribuzioni dal Basso, ben trovata. Ciao, grazie mille. Presentaci questo tuo lavoro. È un documentario innanzitutto, che è una parola che mi rivendico abbastanza e che quindi la userò, quindi è un film documentario e segue le vicende di questo collettivo che si chiama CALP, che è il collettivo autonomo dei lavoratori portuali, che dal 2019 ha iniziato a rendere la battaglia per fermare il transito delle navi che portano le armi in giro per il mondo, una sindacale, quindi io li ho seguiti dal 2021 più o meno per 4-5 anni e quindi il film ha questo come tema principale, poi dopo insomma parla anche di situazioni collaterali che nel frattempo sono successe, visto che comunque è stata molto lunga come ripresa, ecco via. Come era partito tutto? Io ero a Milano durante il Covid, durante il lockdown, e stavo un po' così come tutti penso in quel periodo, poi l'ho passato anche da sola e quindi ero un po' depressa, se vogliamo usare questa parola, e avevo letto questa notizia di questi portuali che appunto stavano facendo dei blocchi per queste navi che caricavano armi dirette in Yemen. Ho letto questa notizia e appunto con questa mia amica che mi ha dato molto coraggio, mi ha detto ma scrivigli, provaci, digli che vuoi fare un film su di loro, che vuoi seguire questa vicenda. E ho mandato un messaggio su Facebook al CALP, mi ha risposto Iose subito, che è uno dei portuali, e il giorno dopo io praticamente sono venuta a conoscerli a Genova e 2 mesi dopo mi ci sono trascritta, abbandonando Milano per sempre. È stato un po' così, un colpo di testa, via, pilotato da quel periodo difficile del Covid, ecco. Com'è stato il periodo delle riprese? Molto bello, molto intenso, anche perché io poi nel mentre ho iniziato anche a lavorare a scuola come insegnante, quindi ci sono state delle giornate in cui come mi staccavo dal computer, perché c'era la DAD, come mi staccavo dal computer riprendevo, e a volte è successo anche che mentre insegnavo riprendessi nell'altra stanza, cioè avevo la telecamera accesa, quindi è stato molto faticoso e molto intenso, però bello, cioè ho conosciuto un sacco di persone, siamo andati dappertutto e poi dopo io sono diventata praticamente una loro sorella e loro per me dei fratelli in qualche modo, quindi è stato bello, cioè mi hanno accolta molto presto e molto bene, ecco, non so se direbbero lo stesso loro, però credo di sì, dai. Come l'hai deciso di strutturarlo? Il film segue dei filoni, delle storie, i personaggi sono sempre, è sempre il collettivo, quindi non esce mai un protagonista, ci sono dei portavoci ma il protagonista sono i portuali in generale e ci sono delle tematiche che ho scoperto una volta arrivata a montaggio, perché lì per lì non me ne ero resa proprio conto, e a parte appunto questa questione delle armi è molto presente anche la questione sindacale, quindi come si struttura una battaglia in impostandola in maniera sindacale, quindi non relegandola solo all'attivismo e quindi non darle un'importanza sì etica però appunto di piazza, cioè che si combatte solo in piazza, ma anche proprio cercare dei cavilli, degli escamotage per combatterla proprio a livello sindacale, quindi sui posti di lavoro. Quindi appunto il sindacato è stato uno dei temi che poi si ritrovano anche nel i film e quindi anche una parte del film. Poi mentre ero lì si concludeva il processo per la morte di Martina Rossi, che è una figlia di uno dei portuali, che insomma è stata una vicenda, era un tentativo di stupro finito con la morte di Martina. E quindi è stato anche questa qualcosa che è entrata, e quindi la questione poi della giustizia, come nel caso dei portuali, che invece per fare questa battaglia contro la nave delle armi si sono presi una denuncia molto importante per associazione a delinquere, invece nel caso di Martina Rossi una giustizia che invece fa fatica poi a giudicare i colpevoli. E quindi questo è anche un altro filone. E poi ci sono sempre gli scioperi, i cortei, quello che loro sanno fare meglio, ovvero le azioni di piazza. Quante persone ruotano attorno al collettivo e quali sono le cose che ti sono piaciute delle loro battaglie? Quante persone è difficile da dire, perché sono sempre un po' variabili. Loro una volta a un'intervista hanno risposto: siamo infiniti, siamo tantissimi. E quindi rispondo anche io così, perché poi ovviamente intorno al collettivo c'è tutta una serie di persone, di realtà sia legate a Genova che anche agli altri porti, ma anche all'attivismo più in generale, che davvero lo fanno essere un corpo molto grande. E quindi ti dirò che questa è stata una delle cose più belle per me, e quindi questo dare un corpo collettivo a una battaglia penso sia la cosa più bella loro. E anche il fatto che non pensano mai di saperne più degli altri, ma anzi si mettono molto in ascolto. Questa è nella mia esperienza, almeno. Che distribuzione sarà? Un po' matta, perché andiamo dappertutto. Siamo molto contenti, nel senso che poi lo seguiamo io, Marco, il produttore, Iosi, uno dei portuali. Cioè, insomma, ci sono tante persone che lo accompagnano, questo film, e tante realtà diverse che ce l'hanno chiesto. Dai cinema agli spazi occupati, ai circoli, a chi più ne ha più ne metta. E quindi speriamo che sarà un tour. Credo che sarà bello. Le poche proiezioni che abbiamo fatto, ne abbiamo fatte due: una a Firenze al Festival dei Popoli, una qua a Genova al Circolo Portuale. Sono state più una festa. Quindi così sarà. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? Sì, sul sito della distribuzione o sui canali Instagram, Facebook. Il documentario Portuali al cinema da lunedì 3 marzo 2025. Un saluto e un ringraziamento alla regista Perla Sardella. Alla prossima! Ciao, grazie mille. Ci vediamo in giro allora. Con Guido Votano, regista del documentario Altri Animali, in tour da novembre 2024. Ben trovato! Ciao! Presentaci questo lavoro, cos'è? È una immersione documentaria in quattro mesi di vita di una clinica veterinaria un po' speciale a Oristano, in Sardegna. Cos'ha di speciale? Beh, a di speciale intanto che la coppia che la gestisce, Monica Pais e Paolo Briguglio, molto noti sulle reti sociali, sono una coppia da sempre nella vita e nel lavoro, e hanno scelto di dedicare una buona parte del proprio tempo alla cura degli animali di nessuno, cioè dei randagi, gli animali senza portafoglio, quindi cani, gatti, e poi loro si occupano anche di rapaci, lui si è occupato ancora un po' di animali da reddito. Insomma, c'è un po' un concentrato di tante storie diverse, tanti modi diversi di rapportarsi, insomma, al mondo degli animali, del quale noi, come loro indicano più volte nel film, del quale noi facciamo parte a pieno titolo, noi umani. Come hai conosciuto questa storia e cosa ti è piaciuto? Mi è piaciuto quello che dicevo prima, l'ho conosciuto un po' per caso, perché me li ha presentati un'amica comune, sono andato un po' a ficcanasare, insomma è un lavoro che mi è sempre un po' piaciuto, mi ha sempre un po' incuriosito, e siccome ho chiesto loro se avessero, insomma, accettato di far seguire la propria attività senza mettere in scena niente, così com'è, in puro stile, diciamo, osservazionale, e loro dopo qualche titubanza all'inizio, cosa naturalissima, piano piano hanno accettato. Come hai deciso di strutturarlo? I lavori che ho fatto sono sempre un po' costruiti dopo le riprese. Io tendo a girare molto, immergermi un po' in delle situazioni, naturalmente delle idee in testa ce l'ho, però non le metto su carta, e dopo aver finito di girare per quanto più tempo possibile, ovviamente in questo caso qui sono stati circa 4 mesi, qualcosa in più, scaletto tutto in modo molto molto rigoroso e preciso, scientifico, e lì poi inizio a lavorare nella costruzione delle varie storie, dei vari intrecci. Che quadro emerge da queste riprese? Innanzitutto un discreto caos, che è francamente anche divertente, lo dico sinceramente, sia da vivere, da girare, sia spero anche per coloro che vedranno il film. Quelli che l'hanno visto si sono molto divertiti. Qualcuno aveva paura di spaventarsi, perché ovviamente in una clinica veterinaria avvengono cose, insomma, che normalmente non si vedono, non vengono fatte vedere. Io in qualche modo le ho fatte vedere per forza di cose, anche se in modo abbastanza soft, quindi non c'è da spaventarsi, ecco, c'è da vivere insieme a loro un po' ad altezza animale, perché io ho cercato di restituire un pochino il punto di vista di queste 1000 bestiole di vario tipo che passano dalle loro mani e dai loro tavoli operatori e anche fuori della clinica, e quindi ho cercato un po', ecco, di usare piccole camere anche dentro le gabbie, in situazioni nelle quali appunto normalmente l'occhio umano non arriva. Quindi c'è un po' questa curiosità, c'è un po' questo voyeurismo, vogliamo dire così, e c'è anche la dimensione un po' vera di una professione, quella veterinaria, che sta cambiando molto. Loro lo raccontano nel film, sia Paolo che Monica, quando hanno iniziato era totalmente diverso, sia il rapporto con la tecnologia che loro usano, che oggi è una tecnologia di punta e all'epoca, solo 20 anni fa, era assolutamente semplice e alla portata, diciamo, di tutti, insomma, non certo di specialisti, e oggi è cambiato soprattutto il rapporto con i proprietari degli animali. Il titolo? Altri animali non vuol dire gli animali strani, gli animali buffi, sono gli animali altri da noi, insomma, semplicemente questo. Che scelta distributiva hai fatto? È stata fatta ovviamente assieme a chi ha prodotto il film, Cristiano Bortone, e al distributore. Piano B è stata un po' un mix tra alcuni eventi ai quali ha partecipato sia Monica Pais, e ai quali anche qualcuno ha partecipato anch'io, e una distribuzione più classica nelle sale, magari in piccole sale. Distribuzione sta continuando, peraltro, perché insomma andremo avanti a marzo, aprile con altre sale, dopo aver fatto già un bel giro in Sardegna che è andato molto bene, 2 proiezioni a Milano che sono andate sold out, anzi ne hanno messa una terza, poi Bologna, Firenze, Roma siamo stati più volte e torneremo, e poi si continuerà anche verso il sud, a Torino, a Genova anche siamo stati. Il film è piaciuto molto, chi lo vede rimane contento, che questo mi fa molto piacere. Dei riferimenti web per saperne di più? Altri animali, il film. Il documentario Altri animali in tour da novembre 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Guido Votano. Alla prossima! Grazie. Con Vittorio Pavoncello, regista del film Velia Titta, vedova Matteotti. Ben trovato! Grazie e ben trovati anche a voi. Mi fa piacere essere qui con voi a parlare del film. Ci presenti questo lavoro? Come si sa, o come si sarebbe dovuto sapere, perché poi queste celebrazioni dei 100 anni della stazione di Matteotti hanno avuto delle vicende alterne, sia di pubblicità mediatica, politica, invece anche a volte dei momenti in cui sembrava che non ci dovessero essere. Per cui 2 anni fa io vinsi questo bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le celebrazioni matteottiane del 2024. È passato un po' di tempo, vicende alterne, e poi questo bando si è tramutato appunto nel film. Come l'hai articolato? Il film si basa su quello che si sa della vita di Velia. La cosa che mi aveva colpito molto, oltre a tutti gli aspetti politici, è anche la situazione emotiva e psichica di una persona alla quale viene sottratta attraverso un rapimento una persona cara. Tant'è vero che Velia, appena saputa la notizia del rapimento di suo marito Giacomo Matteotti, cade in una specie di stato di semi-incoscienza, non riconosceva neanche più le persone. E beh, in questo caso era come se fosse accaduto in quel momento quello che si sapeva che sarebbe accaduto, ecco. Cioè, il loro rapporto è sempre stato attraversato dalle vicende politiche e dalle vessazioni che Giacomo Matteotti subì fin dall'inizio del fascismo. Lui è morto nel 24, ma prima aveva scritto Un anno di dominazione fascista, nel quale metteva in evidenza tutto le violenze e le attività di malgoverno operate dal fascismo. Non soltanto questo, ma anche proprio il clima di violenza brutale che aveva messo in atto il fascismo, Matteotti lo aveva già descritto ampiamente in questo libro, per cui si poteva immaginare che quelle violenze, che l'avevano già colpito, perché lui era già stato intimidito, malmenato, addirittura sodomizzato da delle squadracce fasciste. Su quali elementi ti sei voluto focalizzare? Per realizzare questo film io ho preso come interpreti il gruppo di circa 12 rifugiate ucraine con le quali sto lavorando già da un po' di tempo, e abbiamo già fatto un primo spettacolo con il Teatro di Roma che era Women in Selfie, iniziato nel 22, loro erano appena arrivate in Italia, scappate dalla guerra, e abbiamo iniziato questo laboratorio di teatro centrato sul disagio che provavano dall'aver lasciato l'Ucraina e dal doversi trovare da un giorno all'altro come rifugiate con uno statuto speciale di rifugiate in un paese che sì, più o meno conoscevano, oppure comunque in un paese che non era il proprio, ecco, cioè cambiando completamente le proprie abitudini. E questo perché in un certo qual modo volevo mettere in evidenza che cosa significa uno stato totalitario e un regime come quello instaurato all'epoca dal fascismo e come quello che stanno vivendo attualmente, in questo caso le donne ucraine, con l'aggressione da parte della Russia. Mi interessava anche mettere in evidenza come i regimi totalitari e dispotici eliminano quelli che ritengono che siano i rivali più pericolosi. Mussolini uccise Matteotti, noi abbiamo sotto i nostri occhi l'uccisione di Navalny. Ora, da un punto di vista politico, le due persone sono completamente diverse, ma hanno subito la stessa sorte di essere osteggiati fino alla eliminazione fisica da parte di un regime. E in questo caso le 12 donne che interpretavano Velia si trovano per una situazione un po' assurda, chiuse all'interno di un teatrino che vive nell'epoca del fascismo, e la loro possibilità di riscatto e di libertà sta nell'identificarsi in Velia Matteotti nella sua lotta al fascismo come una condizione imprescindibile dell'essere europei. Dalle polemiche che stanno sorgendo adesso sulle dichiarazioni di Mattarella, proprio in virtù di questo, stanno tirando fuori delle parti di storia che già si conoscevano abbastanza. L'Ucraina, che era divisa in due, con una parte filonazista e un'altra che collaborò invece alla vittoria delle truppe sovietiche contro il nazismo. È una storia abbastanza particolare, che vede ancora stranamente, che ne so, una figura come quella di Bandera che non è stata completamente tolta né dimenticata, non se ne parla, è stata per il momento, come dire, messa un po' da parte. Credo comunque che l'ingresso in Europa per quello che riguarda l'Ucraina è un po' particolare, perché non si capisce bene se è uno stato sovranista che sta lottando contro un impero che vuole defraudarlo della propria sovranità, oppure è uno Stato che si riconosce pienamente nei valori dell'Europa. Questo anche è un argomento che spesso viene fuori con il gruppo di rifugiate ucraine, che devo dire sono delle donne deliziose, perché hanno accettato di mettersi in crisi in un momento, potete ben immaginare quanto sia difficile per loro. Vivono nelle periferie della città, hanno difficoltà di spostamenti, fanno ovviamente lavori da badanti, E cito il caso più esemplare per quello che riguarda questa esperienza, che è quello di una donna che è venuta con le sue tre figlie, la più piccola ha 9 anni, la più grande ne ha 14, e fa le pulizie in un camping qui a Roma, spostandosi anche da una periferia all'altra. Infatti, nella parte dello spettacolo che abbiamo fatto, che era Women in Selfie al teatro di Villa Torlonia, nella parte finale c'era una frase molto bella che diceva che la guerra è tutto ciò che non si vede. Il film è molto particolare anche da un punto di vista estetico e di contenuto, perché le ucraine recitano alcune parti in ucraino con i sottotitoli in italiano, altre parti del film invece sono mute, e comunque è girato per una buona parte in bianco e nero, con un nero molto molto opprimente su quello che sono le persone che in questo caso rappresentano la luce. Credo che sia abbastanza chiara la metafora. Che distribuzione avrà questo film? L'abbiamo presentato il 27 gennaio alla Camera dei Deputati, perché mi era sempre sembrato giusto che, essendo Matteotti un deputato, il luogo per ricordarlo attraverso questo film fosse quello della Camera dei Deputati istituzionale. Quello che sarà adesso il percorso del film è quello che stiamo cercando di capire insieme alla Rino Sciarretta della Givago Film, per dargli una, ci auguriamo, visibilità nei festival. Le sale credo che sia un discorso un po' complicato, ma anche su questo non disperiamo e pensiamo qualche proiezione di poterla fare. Ci sono dei riferimenti web per saperne di più? C'è il sito di ECAD e degli Stati Generali della Memoria, che sicuramente appena avremo maggiori notizie avranno come prima pagina questo qua, www.ecad.name, e l'altro invece è statigeneralidellamemoria.net, anche su Facebook. Il film Velia Titta, vedova Matteotti. Un saluto e un ringraziamento al regista Vittorio Pavoncello. Alla prossima! Sì. Con Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino per presentare la 14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema a Roma, Palazzo delle Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Ben trovato. Ciao Federico, ciao a tutti. Raccontiamo cos'è. Siamo alla 14ª edizione, insomma una formula collaudata, sono 10 film con una proiezione ogni 2 settimane, lo spirito è quello divulgativo per raccontare un po' di classici o di chicche della storia del cinema, coprendo un po' varie epoche, vari paesi, ma anche vari tipi di cinema, dai grandi classici hollywoodiani al cinema sperimentale, film più recenti ma anche dei grandi capolavori del muto, quindi insomma è una rassegna a 360 gradi, o questo succede sempre il martedì. Ogni 2 settimane. L'ingresso, come sempre, è gratuito, è consigliata la prenotazione in ogni caso sul sito di Palazzo delle Esposizioni. Cominciamo il martedì 21 gennaio con La Signora del Venerdì di Howard Hawks, che insomma è considerato uno dei capolavori assoluti della screwball comedy, con un geniale capovolgimento classico poi di Hawks, trasforma in donna il protagonista di The Front Page, che era la classica commedia di Ben Hecht, che già era stata portata al cinema peraltro pochi anni prima, e lui trasforma però il personaggio da uomo a donna. Poi peraltro ricordo, molti avranno visto la versione successiva di Billy Wilder con Jack Lemmon e Walter Matthau, ecco, la parte che poi farà Jack Lemmon in realtà nel film di Hawks è fatta da Rosalind Russell, e è assolutamente inarrivabile Cary Grant nel film, che insomma grande maestro della commedia e qui dà veramente il meglio di sé. Il film peraltro è conosciuto anche come forse il film parlato più velocemente della storia del cinema, è una veramente una commedia travolgente. Poi tra i classici hollywoodiani ti segnalo anche il film di chiusura, che è Gilda, il film che ha consacrato Rita Hayworth nell'immaginario collettivo. Peraltro sia Gilda che La Signora del Venerdì vengono presentati nel restauro 4K realizzato da Sony per il centenario della Columbia. Avete dedicato a questo film anche la copertina del manifesto. Anche la copertina, sì. Era irresistibile, insomma. E faremo anche il restauro della Maschera della Morte Rossa di Corman, che insomma è morto circa un anno fa ed era un omaggio doveroso. Il restauro peraltro integra anche delle scene inedite. Poi ho ovviamente una gran parte della rassegna sarà dedicata alla pellicola 35 mm come sempre abbiamo fatto, anzi questo è in realtà il primo anno in cui apriamo anche al digitale, però ecco, verranno fatti in 35 mm di Esire di Dreyer, Strada sbarrata di William Wyler, Mouchette di Bresson, Sgomento di Mazzuo Fiuz, che è una vera chicca, insomma l'ultimo film girato a Hollywood da Fiuz prima di tornare in Francia. Faremo in 35 mm anche l'omaggio a Germaine Dulac, che viene considerata forse la prima regista femminista della storia del cinema, una pioniera del cinema sperimentale nell'epoca, negli anni 20, delle avanguardie storiche. Mentre sempre in pellicola faremo anche il primo film di John Ford, o almeno il primo film conservato di John Ford, che è anche però il suo primo lungometraggio, si intitola Straight Shooting. La proiezione è martedì 4 febbraio, verrà a presentarlo Guy Borlet del Cinema Ritrovato di Bologna. Infatti presenteremo un restauro fotochimico d'epoca fatto proprio dall'immagine ritrovata, che è il laboratorio della Cineteca di Bologna. Quali altri sono i luoghi di provenienza delle pellicole? Le pellicole vengono o da Park Circus a Londra o dalla Lightcon di Parigi, che è una distribuzione specializzata soprattutto in cinema sperimentale. Poi c'è appunto la Cineteca di Bologna per Straight Shooting e la Lab 80 di Bergamo, con cui lavoriamo molto spesso. I titoli che periodo coprono? Da che anno a che anno? Il primo film di Ford è del 17. E forse l'ultimo film a livello temporale è proprio Il lungo addio di Altman, che è del 73. Peraltro ci tengo anche a sottolineare che abbiamo inserito un grande classico di Altman perché ricorre proprio a febbraio il centenario della nascita, quindi ci sembrava doveroso. Di solito arriviamo anche un pochino più avanti, verso gli anni 80, insomma a volte anche anni 90, però stavolta non ci spingiamo oltre il 73. Ecco, chi volesse recuperare Il lungo addio, insomma, è un po' Il canto del cigno del noir da una parte, insomma, tratto da Raymond Chandler con Elliot Gould, è veramente un film incredibile, insomma. È prevista anche una breve introduzione? Come negli anni scorsi, la rassegna è realizzata insieme al Sindacato Nazionale Critici Cinematografici, il gruppo Regione Lazio, e per cui ogni film viene introdotto da un critico diverso, un'introduzione di circa 10 minuti che dà un po' un contesto, insomma, al film, un contesto storico e critico, per aiutare gli spettatori ad orientarsi. A noi fa molto piacere che poi è una rassegna a cui vengono anche molti giovani, vengono gli studenti, insomma, per cui è un modo, sempre appunto in questa chiave divulgativo popolare, per dare uno strumento in più. I riferimenti web per il programma? L'ideale appunto è il sito di Pala Expo, quindi palazzoesposizioniroma.it, dove poi ci si può anche registrare per fare la prenotazione gratuita. 14ª edizione della rassegna A qualcuno piace classico, appunti di storia del cinema, a Roma, Palazzo Esposizioni, dal 21 gennaio al 27 maggio 2025. Un saluto e un ringraziamento a Stefano Finesi dell'associazione La Farfalla sul Mirino, che organizza. Alla prossima! Grazie mille a voi, grazie Federico. Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.